Mix 24 estate di Giovanni Minoli. Bentrovati su Mix 24 estate, stiamo raccontando gli anni 60, musica e storia con Franco Schipani e Marina Milone. Oggi ci occupiamo del 1965. Allora Franco, come iniziamo il racconto oggi del 1965? Non è più uno sconosciuto, è diventato un idolo e questa è la sua canzone più ascoltata del 1965. Non son degno di te, non ti merito più, ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, e va bene così, me ne vado da te. Buongiorno Marina! Buongiorno a tutti, ma quindi Gianni Morandi è ancora amatissimo dagli italiani quell'anno? Amatissimo, tanto è vero che Morandi piazza ben altri 2,45 giri nelle top 10 dell'anno. Ma quando si fa sera, questo silenzio che nasce intorno a me, se manchi tu mi fa sentire solo come un fiume che va. Vabbè, quindi un Gianni Morandi fortissimo nel 1965, ma 45 giri a due facciate, giusto? Su questo non ci piove. Ma è vero che sul lato B mettevano quasi sempre dei brani che non avevano possibilità di avere successo? Beh, guarda, di solito sì, Marina, di solito sì, Marina. Però non è il caso di Mina, per esempio, perché pensa, lei nel 1965 pubblica uno dei 45 giri più venduti della sua carriera. Ecco, guarda, indovina un po' qual è il lato B. Ricorderai rivedere te, mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me. Vabbè, mi hai fatto ascoltare due lati A, altro che B. No, assolutamente Marina, guarda. E se domani era il lato B? Guarda, sono anche stanco di parlare del lato B di Mina. Sì, vabbè, punto. Lasciamo perdere. Comunque, tu ti rendi conto, sì. E se domani, quindi il futuro è già iniziato nel 1965 e anche nello spazio, perché pensa, c'è un primo uomo che fa una passeggiata nello spazio. È un russo, ha 30 anni, si chiama Alexei Leonov e con una tuta speciale esce dalla sua navicella e per 10 minuti fa una passeggiata nello spazio senza forza di gravità. Così, un uomo spaziale, è il primo uomo. Cioè, ma tu ti rendi conto, adesso siamo abituati a vedere i film, no? Sai, quelli fantastici, questi che passeggiano. Ma tu pensa a un uomo su una navicella attaccato con questo cordoncino che fa... Ma sai, io passeggia, vado così, nello spazio, nel nulla. Pensa al coraggio. E intanto in quell'anno, nel 1965, in Vietnam gli americani continuano a bombardare il Vietnam del Nord, ma perdono nel Vietnam del Sud. Infatti i Vietcong assaltano l'ambasciata americana di Saigon, l'ambasciatore fugge e uccidono 21 persone. In America, ma in tutto il mondo, iniziano, continuano, crescono le manifestazioni contro questa guerra. Migliaia di studenti scendono in piazza a Washington, a New York. Intanto in un teatro di New York viene assassinato a 39 anni Malcolm X, leader dei diritti degli afroamericani, un convertito all'Islam, un uomo carismatico che viene ucciso proprio dai suoi ex confratelli della Nazione Islamica. Sempre in quell'anno a Londra muoiono Thomas Eliot e Winston Churchill. Si chiude un'epoca. Ne succedono di tutti i colori in quell'anno. Pensa che in America c'è uno dei più grandi blackout della storia. La centrale idroelettrica vicino alle cascate del Niagara smette di funzionare. E nel giro di 12 minuti, prima a New York, ma poi in altri 7 stati, New Jersey, Massachusetts, Vermont, Maine, Connecticut, ma anche una parte del Canada, restano al buio. Gli ascensori sono bloccati, i semafori spenti e gli incroci intasati. Ma non tutti i mali vengono per nuocere, cara Marina. Sai perché? Perché 9 mesi dopo, guarda caso, da questo blackout nascono un sacco di bambini proprio in quegli stati. Ma sarà un caso secondo te? Ma se, non lo so, secondo te è un caso? No, non è un caso. Senti, gli mettiamo una canzone sotto nuova per dare un po' l'atmosfera di quei giorni? Quindi anche gli americani sono dei romanticoni come noi in quegli anni 60. Assolutamente, però vedi, ti volevo dire una cosa a proposito di questo blackout. Cioè, io ho sempre detto che da quando ci sono tutti questi canali televisivi si fanno meno figli. Cioè in Italia è vero, da quando sono arrivati tutti questi canali, magari la gente la sera invece di fare altre cose si guarda la televisione. Comunque, lasciamo perdere questo argomento e torniamo a noi con le canzoni romantiche. Ecco, non c'erano soltanto canzoni romantiche da noi nel 1965. Il rock and roll era in buonissima salute. Vediamo cosa stanno facendo in quell'anno gli emulatori di Elvis. Ogni mattina ci sei tu, ogni mattina solo tu. Tu non mi guardi, ma tra mille ragazze esisti solo tu. Presto ci faremo un altro Grammy. Cosa perso chi non è stato qui con noi? Ehi, ehi, ehi, finalmente ho trovato la ragazza giusta. Ma, l'ho lasciata per poco. Domani verrà. Sbagliare non posso. È finita così, senza un vero perché. Ma ogni notte ti sento con me. E mi chiedo se tu... Vabbè, quindi qui abbiamo un Little Tony, Celentano e Michele. E Michele, la senti questa voce meravigliosa? Sì. Cioè, con particolare. Tutto con tutto rispetto, guarda, cioè, Little Tony e Bobby Solo cantano. Michele è un cantante. Perché ha una qualità vocale, un'estensione diversa, vocale, delle atmosfere, guarda, veramente, veramente pazzesca. Guarda, ti faccio capire, ti faccio ascoltare un altro brano. Ti ringrazio perché sei ancora mia e mi sai dare tante cose che io non ti do. Ti ringrazio perché quando vado via. Beh, straordinario. Sì, straordinario. Poi sai, ma aveva più successo? No, erano, avevano lo stesso successo all'epoca, anche perché poi, guarda, Bobby Solo e Little Tony, diciamo, si sono evoluti, hanno fatto altre cose, sono riusciti ad avere una carriera lunga, lunga, lunghissima. Michele è scomparso, però all'epoca, insomma, erano tutte e tre dei personaggi di altissima classifica. Senti, Franco Schipani, ma Rita Pavone, che abbiamo visto avere un grandissimo successo, adesso nel 1965 è scomparsa? Assolutamente no, hai visto che i giovani a un certo punto, grazie al boom economico, sono diventati parte integrante del mercato, sono diventati dei consumatori. Poi i teenagers sono diventati dei consumatori. Ecco, lei, Rita Pavone, nel 1965-66 poi individua un altro tipo di pubblico, che sono gli adolescenti, perché anche gli adolescenti, grazie al boom economico e grazie anche a Rita Pavone, in quel momento diventano dei consumatori. Quindi questo era il suo pubblico, i bimbi. I bimbi, finalmente sono arrivati anche i bimbi in televisione. Ecco, questo che abbiamo ascoltato era La pappa col pomodoro. Sì, famosissimo. Perché la Rai, proprio in quell'anno, produsse Il giornalino di Gian Burrasca, scritto da tale Bamba, che era lo pseudonimo di Luigi Bertelli. E pensa che ha avuto talmente tanto successo che poi la Rai negli anni 70 e negli anni 80 lo ha replicato con grandissimo successo. Ok, tu pensi a uno show per bambini? Aspetta un attimo, perché la regia era di Lina Wertmüller. E poi questa colonna sonora, che sembra così andante, familiare, è stata fatta da addirittura da Nino Rota e Luis Bacalov, che sono due premi Oscar. Maestri. Ecco, abbiamo omaggiato Nino Rota negli anni precedenti, e però hai nominato Bacalov, il grande maestro. E quindi? E quindi te lo faccio ascoltare. Sì, Bacalov, questa era riconosciuta, era la colonna sonora del film Il postino. Siamo andati un po' più avanti così per omaggiare. Ma se lo meritava sia Bacalov che Troisi. Esatto. Insomma, un grandissimo, grandissimo, grandissimo film. Senti, ma a proposito di TV, lo sai quanti sono gli abbonati alla Rai nel 1965? Guarda, non ne ho la più pallida idea. So che già c'erano tante televisioni in giro per l'Italia. Io ti faccio sempre queste domandine così facili. Non sono preparato. Quanti erano? Dimmelo, please. Oltre 6 milioni. Wow, 6 milioni. E però nella storia della TV c'è anche un personaggio che non possiamo non nominare raccontando la storia della televisione italiana. Chi è? Un altro Gian Burrasca? Più o meno. Guardando la storia com'è andata, un certo Silvio Berlusconi nel 1965 ha 29 anni ed è presidente della società sportiva Torre Scala Edil Nord. E l'allenatore di questa squadra, la prima squadra di Berlusconi, chi è? Non lo so, guardami. Marcello Dell'Utri. Vice allenatore è Vittorio Zucconi, attuale editorialista di Repubblica. Aspetta, scusa. Allora è una specie di film tipo Lino Banfi, l'allenatore del pallone, o Frank e Ciccio, quella roba lì, cioè, sembra un film, invece è realtà. E non si sa come se la cavava questa squadra, no? Però bene, credo bene, aveva delle belle basi, dai. Vedendo poi come è andata a finire, credo proprio bene. Comunque, in quell'anno Silvio Berlusconi incontra Carla Dall'Oglio e si sposa, e la leggenda vuole che si siano incontrati davanti a una fermata dell'autobus, e lui, galantuomo com'è, gli abbia offerto un passaggio, e da lì è nata una storia d'amore, un colpo di fulmine, diciamo. Ma cos'altro proponeva la Rai nel 65? Nel 65 la Rai che cosa proponeva? Teatro, cultura. Quasi un servizio pubblico, quasi. Sì, ma soprattutto, guarda, dei grandissimi varietà. Nina, hai fatto bene ad insistere perché io venissi qui al Studio 1. Ce fai una figura di niente stasera vicino a me. Nina, io sono ancora Scapolo. Sì. Giovanile, scattante, con una posizione anche sul piano economico abbastanza importante. Sì. C'ho il fisico che mi sorregge. Che curiosità, senti sta pagnotta. Nina, non mi deridere, No, io mi butto sulle Kessler, sai. Due stanche di niente, capitale. La notte piccola per noi, troppo piccolina. La notte piccola per noi, cantavano le sorelle Kessler. No, anche qui è una nazionale proprio pazzesca. Castellano e Pipolo, Bruno Canfora le musiche, sigla di Studio 1 fatte da Cesarino di Seligaglia, regia di Antonello Falqui e soprattutto condotto da Mina. Beh, che squadra, una nazionale, praticamente. Nazionale assoluta. Però fammi capire, Mina è tornata alla conduzione, non l'avevano tagliata fuori dagli schermi della TV perché aveva avuto un figlio fuori dal matrimonio? Sì, più guarda, più che un cartellino giallo, Mina, in quel momento l'avevano proprio messa in quarantena. Però guarda, anche se ancora un certo tipo di stampa si accaniva contro di lei perché era nato questo bambino, Massimiliano, nata dalla relazione con Corrado Pani, che invece era sposato, insomma una cosa extraconiugale, invece poi hanno capito che quando Mina va in televisione lo show funziona, ci sono milioni di ascoltatori in più davanti al tubo catodico, quindi è stato il primo esempio in cui il prodotto è più forte del perbenismo. Era troppo forte. Fortissima. E a proposito, ma chi erano gli altri top players nell'Italia del 65? Beh, il 65 è stato un anno veramente incredibile. Ascolta un po'. Se il giorno posso non pensarti, la notte maledico te. E quando infine spunta l'alba, c'è solo vuoto intorno a me. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, ma niente lo sai. Finirà, me l'hai detto tu. Parliamo. Di che parliamo? Capolavori. Veramente, capolavori assoluti. Ecco, ma i top, i grandi, vanno a Sanremo quell'anno? Dimmi di sì. Non te lo dico, ti lascio in sospeso perché ne parliamo dopo la pubblicità. Mix 24 estate. Bentrovati amici ascoltatori su Mix 24 Estate. Oggi siamo nel 1965, ma soprattutto con me c'è il grande Franco Schipani. Franco, che mi dici del Festival di Sanremo di quell'anno? Beh, anche quello del 1965 è stato un festival da serie B, anche se poi Pino Donaggio e Jimmy Fontana, con le canzoni che abbiamo ascoltato prima, hanno venduto tantissimo in tutto il mondo. Comunque, il festival se lo aggiudica una canzone, ma una canzone carina, niente male. Se piangi, amore, io piango con te, perché di sempre. Se tu non vuoi, non vuoi vedermi soffrire mai. Se ride... Beh, piange poco il festival quell'anno. Comunque, il Cantagiro, il disco dell'estate, ridono quell'anno. Cosa si canta in Riva al Mare nel 65? No, guarda che Sanremo comunque piange, però le manifestazioni estive sicuramente ridono. Perché? Perché grazie alla televisione che è accorsa in massa ormai a registrare questi cantanti che arrivano in tutte le piazze italiane, quindi le manifestazioni canore famose, non soltanto, poi ci sono un sacco ormai di televisioni in giro, ci sono i jukebox, ci sono tantissime radio, transistor, beh, sai cosa si ascoltava in spiaggia? Si ascoltava questo. Ciao, ciao, grido chiamandoti. Ciao, ciao, amore, abbracciami. Ciao, ciao, sono tornata da te. Lo so perché tu sei qui e guardi verso di me. Sì, un sacco di gruppi. Chi sono, lo vogliamo dire? Ma certo, sono, gli ultimi sono quelli che lavoravano con Adriano Celentano per la sua etichetta del Clan. Infatti si chiama Chi mai sarà la ragazza del Clan, i Ribelli. E poi c'era La Casa del Sole di Marcello Sferial. E la prima era Ciao Ciao dell'inglese Piccola Clark. Comunque noto una certa somiglianza con gruppi stranieri, o sbaglio? No, non ti sbagli. Senti, vogliamo far sentire Petula Clark in versione originale, che è molto divertente. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Ecco, questa è Petula Clark, il brano si chiama Downtown. Sai perché cosa, perché è importante, Marina? No, perché? Perché la parola Downtown, se oggi tu vai negli Stati Uniti, per esempio, vai a Boston, Chicago, Detroit, Miami, Philadelphia, eccetera, se sei un turista, ti vuoi andare a divertire, dici, dov'è Downtown? Downtown ormai nell'immaginario del turista è il posto dove ci si diverte di più. Tu vai a New York, Downtown è il Village, o Soho. Comunque... Tu mi dicevi prima dei complessi, guarda, ce ne sono talmente tanti in questo momento che stanno sgomitando, che in tutte le manifestazioni, Sanremo, disco per l'estate, Cantagiro, eccetera, si fanno delle categorie a parte, c'erano i big, gli esordenti e i complessi. E la nostra economia però quell'anno, nonostante questo exploit di musica, va male. Alcune aziende sono in crisi, iniziano gli aiuti di Stato, fughe di capitali all'estero e intanto un insegnante di scuola media guadagna 110.000 lire al mese. Il Corriere della Sera costa 50 lire, un chilo di pasta 245 lire, una scatola di cerini 50 lire e 10 nazionali 90 lire. Ecco, perché non ti ricordi, Marina, ma tanti no, anni fa... No, infatti mi suona un po' strano, potevi, 10 nazionali. Tu potevi andare al tabaccaio, cioè mi dai 3 nazionali, mi dai 2, cioè gli potevi chiedere sigarette proprio al dettaglio, capito? Come comprare dei grissini. A Taranto, attenzione, il presidente della Repubblica Saragat inaugura l'impianto siderurgico dell'Italsider, uno dei più grandi d'Europa, finanziato dall'IRI, dalla Cassa del Mezzogiorno. Ci sono voluti 5 anni per finire i lavori, poi viene inaugurato e la storia di questo impianto dura fino ai giorni nostri, che ci vorrebbe poi una puntata a parte. Vabbè, sì. Ma comunque, insomma, quell'anno quell'impianto è costato 350 miliardi di lire e dà lavoro a 4.500 persone e produce 4 milioni di tonnellate d'acciaio. Oggi l'opera è una luminosa realtà, un'invitante strada perché gli europei sentano più vicini i popoli che parlano sì un'altra lingua, ma che hanno gli stessi ideali e gli stessi interessi. solennemente l'hanno inaugurata, percorrendola per primi, fianco a fianco, il presidente Saragat e il presidente De Gaulle. Ed era ancora il presidente Giuseppe Saragat che con Charles de Gaulle quell'anno inaugura il traforo del Monte Bianco. Sono 11 chilometri, è la galleria stradale più lunga del mondo che collega la Francia all'Italia, da Chamonix a Courmayeur. Il Financial Times ancora anche quest'anno nel 1965 assegna alla lira l'Oscar della moneta nonostante la crisi dell'anno precedente. E poi c'è una piccola cosa che succede che potrebbe passare inosservato. A Ponzano, Veneto, quattro fratelli, Luciano, Gilberto, Giuliana e Carlo, fondano una nuova azienda che farà storia e la chiamano United Colors of Benetton. Comunque, nella musica, nel 65, fuori dai nostri confini, cosa succedeva? Cosa succedeva, Marina? Innanzitutto i Beatles! Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help! When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. But she don't care. I mitici Fab Four, ma in Inghilterra erano protagonisti incontrastati assoluti? Assolutamente no, perché proprio nel 1965 un gruppo inglese pubblica quello che è il manifesto ufficiale dell'insofferenza giovanile. E qui mi devo alzare in piedi perché devo fare l'annuncio. Sì, no, lo sei faccio. Sicuro? No, l'annuncio che fai casino. Fatemi fare questo annuncio come lo farebbero quelli che gli annunciatori dei. Vabbè, in piedi. Vado. Vai. Ladies and gentlemen. The Rolling Stones. Non per smorzare il tuo entusiasmo per questa band. Che è impossibile smorzare, te lo assicuro, Marina. Comunque, dimmi. Che differenza c'è tra questi due gruppi, tra i Beatles e i Rolling Stones? Cioè, tu vorresti che io ti dicessi la differenza in 20 secondi, che sarebbe più facile dirti qual è la formula dell'acqua pesante per fare la bomba atomica. Comunque, per essere superficiali ed essere veloci, ti dirò che c'è una differenza formale nel vestiario e nei comportamenti. Cioè, quindi Beatles, signorini inglesi e Rolling Stones più trasgressivi? Marina, ci ho preso? La regina Elisabetta di uno di questi due gruppi ha fatto Baronetti. Secondo te, chi ha fatto Baronetti, secondo te? Vabbè, i Beatles, ok, ho capito. Brava, ho capito. Risposta esatta. E però... anche i Rolling Stones sono più trasgressivi, quindi dal punto di vista musicale? I Rolling Stones invece, dopo Satisfaction, hanno trovato quello che era il loro sound e sono diventati the greatest rock and roll band ever. Noto una certa preferenza per i Rolling Stones, o sbaglio? Non ti sei sbagliata. Mix 24 estate. Ben trovati su Mix 24 Estate e su queste note dei mitici Fab Four. Franco Schipani, dove siamo? Dopo tanto tuonar piove, siamo nel 1965 con i Beatles che finalmente, dopo aver venduto tanti dischi in Italia, arrivano nel nostro paese per esibirsi dal vivo. E lo hanno fatto in tre città, lo hanno fatto a Milano, a Genova e naturalmente a Roma. Quindi un mega big evento. Un mega evento. Senti, ti leggo che cosa dicono i cronisti dell'epoca con quella voce. Che alle 23:15 sono saltati i cordoni della polizia e la massa è straripata sui marciapiedi. Alle ore 23:20 la polizia ha organizzato il contrattacco e sono volate le prime botte. Alle 23:30 la marea era costretta a ritirarsi giù lungo la scalinata sulla piazza. La pressione veniva domata con i manganelli. Quindi arrivano a Milano e cercano di sfuggire ai fans, ma i giornalisti poi li riuscivano ad evitare o no? Guarda, se tu guardi i film dell'epoca dei Beatles, loro si sono specializzati nel fuggire per evitare i fans. Vedi sempre torbe, manipoli di ragazzine, ragazzini urlanti. Un delirio totale, loro scappano dappertutto. Però i giornalisti non li hanno mai evitati. Adesso senti uno straccio della conferenza stampa di Milano. Gli chiedono: se vi accorgeste di perdere i capelli, ricorreremmo alle parrucche. E per quanto tempo prevedete di stare sulla cresta dell'onda? Finché dura, e durerà parecchio. Pensate che esista qualcuno più grande o più importante di voi? La regina. Ammirate Shakespeare almeno? Certo, è inglese, però lui non ha venduto tanti dischi. Beh, certo, già un po' spacconi questi ragazzini. Ah, un spaccone, hanno venduto 50 milioni di dischi. Ogni scarafaggio, ogni Beatle vale cash 2 miliardi di lire di quei tempi. Dice, potevano permettersi. Se la tiravano un po', Marina? Ma hanno suonato da soli o c'era qualcun altro ad accompagnarli a suonare con loro a Milano? Beh, guarda, loro hanno suonato in tutte queste date complessivamente davanti a 40.000 persone. Pensa che un biglietto costava 750 lire, quello più economico, quello invece costava di più, quello via. IP costava 3.000 lire, un caffè costava 50 lire. Quindi, un sacco di soldi, quindi un sacco di gente. Un sacco di gente, tanto è vero che anche le case discografiche ne hanno approfittato, perché hanno detto: facciamo suonare i nostri futuri, insomma, cioè, è diventata una bella vetrina. Quindi, prima dei Beatles, hanno cantato i nostri italiani. Pino Di Capri con la Fausto Leali con L'ho capito e New Dada con La mia voce. Peccato che mancava Mino Reitano. E perché, cosa c'entra? Come sa, Mino Reitano, ma non lo dice tanto la sua biografia, lo dice anche quella di John Lennon. Era partito nel 1960 ed era andato in Germania come migrante, aveva fatto il cameriere, però la sera si dilettava con la chitarra un po' a intrattenere, no, con le canzoni un po' italiane, i clienti del ristorante. Lui poi è stato scritturato da uno dei clienti di questo ristorante che lo ha fatto cantare insieme ad altri gruppi, altri cantanti. Uno di questi gruppi erano i Beatles. Allora immagina, minoritano, emigrante, un altro che si chiamava John Lennon, emigrante. Si sono, fatti venire la lacrimuccia e hanno fatto comunella, quindi per un anno e mezzo hanno quasi convissuto John Lennon e Mino Reitano. Grandissimo Mino Reitano, quindi. E intanto nel 1965 per la prima volta un papa parla all'ONU, è Paolo VI e fa questo discorso. Jamais plus les uns contro les autres. Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre. C'est la paix. discorso storico contro la guerra, soprattutto contro la guerra in Vietnam, anche perché quello è l'anno in cui l'amministrazione Johnson continua a bombardare il paese. E viene eletto proprio all'ONU Amintore Fanfani, che cerca di intercedere, di tentare una mediazione di pace per la, contro la guerra in Vietnam, anche aiutato dal sindaco di Firenze, Giorgio Lapira. Ascoltiamoli. Ministro Ho Chi Minh, professore, guardi, si cessino i bombardamenti. Due, riconoscano l'FLN. Tre, applichino Ginevra 54. Quarto, dichiarino che si ritirano. Quinto, però, nel frattempo iniziamo i negoziati. Da Vietnam non partiva e Ho Chi Minh gli disse: ma lei quando parte? E la Pira disse: quando lei mi dà i soldi per tornare indietro, non ne ho più. E Ho Chi Minh gli comprò il biglietto. Tentativo di pace purtroppo fallito. E però Che Guevara quell'anno lascia Cuba per tentare di esportare la rivoluzione in Sud America. Aspetta, io mi sono sempre chiesto: chi è che ha i diritti del merchandising? Non mi fare domande difficili, per ma chi favore. È che ha i diritti del merchandising di Che Guevara? Tutte queste magliette, i figli, ci sono i figli di Che Guevara, ha avuto sì dei figli che hanno ereditato questo patrimonio di questo grande padre. Lui esportava la rivoluzione, i figli esportano comunque le magliette all'estero. A proposito di rivoluzione, in Cina inizia la rivoluzione culturale e si rompono ufficialmente i rapporti con la Russia. Ma attenzione, notizia più importante del 1965. Nelle edicole esce un nuovo quotidiano che si chiama Il Sole 24 Ore. È il quotidiano che nasce dall'unione de Il Sole, nato nel 1865, e Il 24 Ore, nato invece nel 1946, così giusto per dire viva Il Sole 24 Ore, viva il direttore, non per essere servili, ma è solo simpatia. Per quanto riguarda la musica, allora, nell'Italia, cos'altro succedeva? È stato un anno ricco di novità e di energie. Il sabato pomeriggio su Radio 2 alle 17.40 fino alle 18.30 va in onda Bandiera Gialla. Sì. Questa sera è festa grande, noi scendiamo in pista subito, e se vuoi divertirti vieni qua, ti terremo tra di noi e ballerai. Questo era Gianni Pettinati che cantava Bandiera Gialla, che era all'epoca la canzone che noi tutti quanti amavamo, perché il sabato pomeriggio noi, altro che il blackout di New York, prendevamo questa radio a transistor, la radio a transistor più grande che si potesse trovare in commercio con le batterie cariche, andavamo al parco e tutti insieme, come una tribù, mettevamo questo totem al centro e tutto intorno ascoltavamo sempre pioggia, sole, Bandiera Gialla, condotta da Arbore e Buoncompagni. Ecco, ma perché prima mi parlavi per ore di questo programma? Perché era così importante? Ma perché? Perché era l'unico programma sul quale potevi assolutamente essere certo che ascoltavi le canzoni che ti piacevano. Questo era Rocky Roberts, che questa era proprio la sigla di Bandiera Gialla. Poi un'altra cosa importante è che nel 1965 è nato il primo giornale musicale specializzato proprio per noi giovani, che si chiamava Big. Tu il sabato sentivi Bandiera Gialla e dovevi andare in edicola a comprare Big. Attenzione, se no non però eri nessuno. Ma se no da che parlavi a scuola se non compravi Big, capito? Però dentro a Big, pensa, c'era un poster. Attenzione, perché c'era una tecnica speciale per tirare fuori questo poster da mezzo alla rivista. Dovevi prendere le graffette, sì, allargarle, tirare fuori questo poster, perché se no poi quando lo tirai così ti venivano dei buchi al centro del poster, magari sulla faccia di Patti Bravo, che non era che non era proprio simpatico. Ecco, mettevi questi poster nella tua stanza e poi che succedeva? Quando arrivavano le pagelle del tipo secondo trimestre, se per caso in matematica non avevi preso il fatidico 6, tua madre entrava come un tornado dentro camera tua e diceva: basta con questi cantanti rock, basta con questi manifesti, e strappava tutto e dovevi ricominciare la collezione. Altro che graffette, passava tua madre e strappava tutto. Un tornado tua madre. Il tornado Filomena. E poi è arrivato il famoso Piper Club di Roma. C'è una strana espressione nei tuoi occhi, vogliono dirmi che non mi ami più, vogliono dirmi che non mi vuoi più bene, mi fanno già capire che io ti perderò. Questi sono l'Equipe 84 con papà e mamma, e prima avete ascoltato i loro antagonisti che come al solito erano The Rocks con C'è una strana espressione nei tuoi occhi, roba da Piper insomma. E se questi erano i campioni del rock, nello sport, dopo 95 ore, Walter Bonatti arriva in solitaria sulla cima del Cervino, scalando la parete nord, la cosiddetta direttissima. È la prima volta in solitaria. A Milano, allo stadio San Siro, Nino Benvenuti con un montante destro stende alla sesta ripresa Mazzinghi e diventa campione mondiale dei pesi junior a 27 anni e viene da Trieste. Felice Gimondi vince il Tour de France, prima di lui c'erano riusciti solo Ottavio Bottecchia, Gino Bartali e Fausto Coppi. Non ci siamo fatti mancare nulla. Oh, nulla assolutamente. Allora, come salutiamo anche oggi con questo? Guarda, prima tu mi volevi far rimettere Il Mondo, che è la canzone più bella italiana. Abbiamo sentita pochissimo. Del 1965. Io la farei riascoltare come al solito, però in una versione più moderna, più attuale. Ti va, Marina? Sì. La facciamo ascoltare da Il Volo. Gira, il mondo gira, nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente. Al 1966. Al 1966, Marina, che però è domani alla stessa ora, alle su 9. Su Mix 24 estate. Siamo qui. Ciao. Ciao. Aperto gli occhi per guardare intorno a me, intorno a me girava il mondo come sempre. Gira, il mondo gira, nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore.